Capitolo 27. Mühlhausen, 10 maggio 1525. La notizia della partenza di Thomas Müntzer per Frankenhausen ha fatto il giro della città in neanche mezza giornata. La mattina, appena desti dopo una notte agitata, affacciandoci alla finestra, troviamo il sagrato di Nostra Signora già piuttosto affollato. A volersi illudere, si potrebbe concludere che la buona coscienza degli abitanti di Mühlhausen ha finito per prevalere sull'interesse. Ma ormai conosciamo come vanno queste cose. I discorsi di Magister Thomas, che uno li approvi o no, sono qualcosa su cui è difficile rinunciare, anche a motivo del fatto che costituiscono per molti giorni uno degli argomenti fondamentali di discussione nelle piazze e nelle botteghe. Ed è chiaro a tutti, a chiunque lo conosca, anche solo per fama, che Thomas Müntzer non lascerà la città imperiale senza rivolgere un ultimo, rabbioso saluto ai suoi borghigiani. Magister! Grido per farmi sentire nell'altra stanza. Sono già qua sotto! Mi raggiunge e si affaccia leggermente al balcone, salutato da un'esclamazione della folla. Lasciamo che la piazza si riempia, così che il Signore possa scegliere il suo esercito. Il suo unico commento. Un rumore eccitato sale dal sagrato. 4 colpi decisi sulla porta. Poi altri 2. Magister, magister! Aprite! Chi siete? Chiedo piuttosto sorpreso dal timbro squillante delle voci. Jacob e Mattia Ziegler, figli di Georg. Dobbiamo parlarvi. Apro con un sorriso ai due figli del sarto Ziegler, nostri fedeli seguaci, nonostante l'opposizione del padre, che tempo fa minacciò pure il magister e dovette desistere da ogni intenzione bellicosa su suggerimento di Elias. Che ci fate qui? Chiedo stupito. Non dovreste essere con i vostri genitori in bottega? No, risponde Jacob, che è il maggiore e ha 15 anni. Da oggi non più. Veniamo con voi, continua entusiasta il fratello, di 2 anni più giovane. Piano, piano, rispondo. Venite con noi. Avete un'idea di quello che significa? Sì, gli eletti sconfiggeranno i principi. Il Signore sarà dalla nostra parte. Il magister sorride. Lo vedi? Tutto si compie. Cristo mette il figlio contro il padre e ci invita a ritornare come bambini. Magister, non possono combattere con noi. Non mi lasciano parlare. Abbiamo deciso e non cambiamo idea. Verremo comunque. State saldo, magister, e a presto. Qui non possiamo restare. Detto questo, si chiudono la porta alle spalle, lanciandosi giù per le scale. Magister Thomas intuisce l'effetto che il breve incontro ha prodotto su di me. Non temere, mi rassicura, stringendomi le spalle. Il Signore difenderà il suo popolo. Abbi fede. Coraggio ora, dobbiamo andare. Vado a chiamare Ottilie ed Elias. Johannes Denk non è più con noi. È partito ieri sera in direzione di Eisenach, in cerca di cannoni, armi e munizioni, e ci raggiungerà sulla strada. Usciamo per il passaggio che porta direttamente in chiesa. Magister Thomas in testa, noi dietro, in silenzio. Attraversiamo le navate, trafitte dai raggi di sole a passo lento. Elias apre il pesante portone. E ci troviamo, ancora in penombra, sulle gradinate della cattedrale. Gli sguardi della folla sono tutti rivolti verso le finestre della nostra stanza. Thomas Müntzer avanza un poco, al centro della scalinata. Nessuno lo nota. Il suo primo grido satura la piazza, già strabordante di almeno 4.000 persone, e viene subito sommerso da un'onda di voci sussultanti. Popolo di Mühlhausen, ascolta! La battaglia finale è prossima! Il Signore presto metterà l'empio nelle nostre mani, come fece con i Medianiti e con i loro re, sconfitti dalla spada di Gedeone, figlio di Ioas. Come le genti di Succot, anche voi, dubitando della potenza del Dio di Israele, rifiutate di portare aiuto alle schiere degli eletti e riservate i cannoni e le armi alla difesa del vostro privilegio. Gedeone sconfisse le tribù di Madian con 300 uomini, di 30.000 che ne aveva chiamati a raccolta. Fu il Signore ad assottigliare le sue fila, perché il popolo non credesse di aver trionfato grazie alle sole sue forze. Coloro che temevano furono cacciati indietro. Non diversamente oggi, la schiera degli eletti si assottiglia per la rifezione dei cittadini di Mühlhausen. Io dico che questo è bene, perché nessuno potrà dimenticare quel che il Signore ha fatto per il suo popolo. E se fosse necessario, sarei pronto a muovere da solo contro i mercenari dei principi. Nulla è impossibile a coloro che hanno fede. Ma colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo, ascoltate, Gente di Mulhausen, il Signore ha scelto i suoi, gli eletti. Chi non ha il cuore gonfio del coraggio della fede, non ostacoli i progetti di Dio. Se ne vada, ora, verso il suo destino di cane. Via! Torni alla bottega, torni al suo letto. Vada via, scompaia per sempre. La gente comincia a urlare, a gridare, a spingersi e a ondeggiare, e si accendono risse un po' dappertutto tra coloro che si ritengono degni e quelli che vogliono restare a casa e danno del pazzo a Magister Thomas, urlando a gran voce. Alla fine rimangono proprio in 300, per lo più gente di fuori, vagabondi giunti in città per far razzia nelle chiese, poveracci e gente di San Nicola, che non abbandonerebbero Thomas Münzer nemmeno se il sole si facesse nero. Il Magister, che non ha più aperto bocca, fa per rivolgersi al suo piccolo esercito, quando quello si divide in due, per lasciar passare alcuni miliziani che trascinano 3 cannoni. «E questi da dove saltano fuori?» chiede Elias, con voce sprezzante. «Non ci servono», taglia corto la guardia. «Potete prenderli. Erich Pfeiffer dice che il signore può averne bisogno». Meno di 2 ore dopo, la colonna dei prescelti esce dalla città in silenzio, dalla porta nord. 2 carri carichi di vettovaglie, i cannoni trainati da muli a chiudere la fila. Un baco fura il bozzolo che da tempo lo proteggeva e comincia lentamente a strisciare verso nuova vita, la nuova età, incognita e rapace, che l'attesa di farfalla dona la forza di superare. Nero, lunga criniera dai riflessi argentati sopra 2 tizzoni e le froge dilatate. Schiuma dal morso e scalpita l'animale che conduce la spada di Gedeone in battaglia. Dalla sella pendono le sacche gonfie delle missive degli insorti, che il Magister ha raccolto in mesi e mesi di furibondo errare. Non li abbandona mai. Contengono nomi, luoghi, notizie che farebbero la gioia di ogni sgherro dei principi. Mi volto. Dietro i cannoni trascinati dai muli, una coltre di polvere rende opaca Mulhausen. Incerte le mura. Le torri sbiadiscono come una stampa sciolta dall'acqua. Come la mia anima, greve d'angoscia che mai avevo provato. Più nulla dietro. Rivolgo lo sguardo di fronte. Di nuovo il Magister, fiero. Trattiene il cavallo, fissa l'orizzonte. La resa dei conti, il castigo degli empi. Mi infonde forza. Il tempo è giunto. Si deve andare.